sigarette nei pacchetti, riverso pomodori dai sacchetti, e svuoto di monete le mie tasche, giacche strappo le toppe dalle giacche, riappendo i crocefissi a tutti i muri, afferro il cappellino del Missouri, rimetto il corno rosso alle mie chiavi, ammaino le bandiere dalle navi e giro cucchiaini a palmi inversi, mi aspetto che il caffè ritorni chicchi, rifletto il vetro mio, lo spremi agrumi e attendo che il limone ci si spicchi, riaggancio le cornette negli armadi, rispondo gli abiti sono spariti, che strano ora che guardo dai contralti, sui miei leggi anche i fogli sono spartiti, mi accascio 9 botti e son dispari, peccato che ho puntato tutto su 10 e via tra briscole su tombolini, il tempo fugge via dai miei natali, ci vedo doppio, ho 2 calendari, accendo 3 candele ai San Gennari, e sempre che qualcuno non si offenda, disciolgo il cero in più e brucio la tenda, sparecchio in tutta fretta i tavolini, sparacchio a caso prezzi di scontrini, con lo spauracchio che sono parecchi, sputacchio in terra semi di pistacchi e giro mulinelli di silenzi, riavvolgo come lenze i miei dissensi, ripesco le indolenze dai miei stagni, nel gracido migrar di rane sogni, e capodanno e botti sono tanti, e l'usignolo mio spero che canti, e mentre aspetto l'ora si avvicini, piume dentro i tuoi cuscini, e capodanno e botti sono tuoni, e il carillon di Dio spero che suoni al campanello mio con le tue.